Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Il giardino dei maestri. Alexander si ritrovò solo fuori dalla chiesa ad aspettare che l'automobile decorata di nastri bianchi tornasse a prenderlo. Si sentiva felice e inglese. Le campane suonavano, uno scampanio distinto, limitato, ripetitivo. Le note inciampavano l'una nell'altra e si inseguivano. L'erba tra le tombe, fitta di pratoline, era tenera e silenziosa. Alexander era uno di quegli uomini che sono disposti a fare una deviazione pur di trovarsi in luoghi come quello, verdi, immobili e sassosi, un uomo che provava reverenza nel portico delle chiese, che si emozionava davanti alle lapidi ricoperte di muschio, botterate dalla pioggia, fuligginose, accostate a recinzioni e muretti. Si mise a passeggiare lungo un sentiero sotto i tassi scuri e fioriti. Tennyson aveva scritto che i tassi, perlomeno le piante maschio, crescono a patate e mandano una nuvola di polline se li si scrolla. Pigramente, con curiosità, Alexander ne scrollò uno a caso e vide che era vero. Un vivace pulviscolo si sollevò nell'aria immobile dell'estate, volteggiò e infine si posò sulla stoffa lucida della sua giacca. Qualcuno, un passante, un giardiniere, un invitato ritardatario, bighellonava in fondo al camposanto. Alexander si diresse verso di lui, scavalcando con delicatezza, con lunghe gambe grigio chiaro, due tumuli di terra giallognola smossa di fresco. L'aria era così densa e torpida da smorzargli la voce. L'uomo indossava un abito estivo sgualcito di un colore intenso che Alexander definì blu elettrico, senza sapere in realtà quale fosse il blu dell'elettricità. In testa aveva un vecchio panama a calotta alta. Stava rannicchiato contro la lapide di una tomba vittoriana e con un bastoncino appuntito ripuliva i caratteri dell'iscrizione dalle incrostazioni di muschio. All'avvicinarsi di Alexander non alzò gli occhi. Le scarpe dell'uomo erano mocassini marroni sporchi di fango. «Bill!» disse Alexander, chiedendosi se non dovesse piuttosto tornare in punta di piedi da dove era venuto. «Immagino che sia tutto finito», disse Bill, sempre picchiettando la pietra. «Una cerimonia interminabile, ne deduco che non ci siano stati topi». «No». «Di tanto in tanto deboli note di giubilo arrivavano fin qui, fra le tombe, mentre mi aggiravo nei paraggi. Ho pensato che non potevo per decenza avvicinarmi di più». Agitò il bastoncino nei buchi di un portafiori di finto marmo con dentro qualche dalia vizza e fiordalisi secchi. Lesse ad alta voce il frutto del suo lavoro. «Pace, pace perfetta insieme ai nostri cari lontani. Sul petto di Cristo, loro e noi siamo al sicuro». «Piuttosto ambiguo, direi, e non del tutto coerente. Ho perfino sperato che qualcuno si alzasse con autorità e sollevasse una giusta causa di impedimento. Ma a quanto pare non ho avuto fortuna». «No», disse Alexander. Bill oscillò sui tacchi agitandogli il bastoncino sotto il naso. «Probabilmente pensa che sto esagerando, che dovrei dare ascolto alla voce del sangue, che avrei dovuto lasciar perdere le mie profonde convinzioni ed entrare là dentro. Probabilmente non riesce a capire che invece non potevo, semplicemente non potevo». «Non ho detto questo». «Flemmatica cortesia inglese, innanzitutto. Pecore. Almeno io la prendo seriamente». «È stato molto comodo», disse Alexander, appoggiandosi con grazia a una lapide di marmo quasi nuova per evitare macchie verdi sulla manica madre perlacea. «Io mi sono commosso». «Lei si commuove facilmente. L'ho vista mentre scrollava gli alberi. Tristezza, tristezza. Ecco cosa vedo. Bill, erano molto felici. Come pecore, pecore, effimere pecore. Per lei volevo qualcosa di reale». Alexander aveva l'impressione di udire il ribollire, il sibilo della sua collera. L'immagine che aveva sempre avuto di Bill Potter era quella di un fuoco che cova sotto un mucchio di paglia. Si sentiva in qualche misura in dovere di spegnerlo, ma non sapeva come. Disse: «Non vedo perché se la prende tanto». Bill si girò bruscamente. «No? Le sembra che esageri? Crede che me la prenda troppo?» «No, no», Alexander cercò di placarlo. «Per lei volevo qualcosa di reale». Alexander era esasperato. Daniel è un uomo reale, da tutti i punti di vista, direi. Lei trova? Beh, io ne dubito. Ne dubito sinceramente, se mi è concesso. In quel mondo, zombie imbalsamati, il Cristo. A nessuno interessa questo aspetto del problema. Pensano che noi non conosco le buone maniere, che è un tipo in gamba, serio e via dicendo. Non è una questione di buone maniere. La panacea inglese. Buone maniere. Maniere morte! No, no. È una questione di vita. E lì non c'è. Alzò un braccio rovente e gualcito in direzione della chiesa e quasi perse l'equilibrio. Crede che dovrei tendere una mano amorosa e ballare alle nozze? Alexander non sapeva cosa pensare in proposito. Tutto ciò che riuscì a dire fu: sì, certo. Non mi va. Alexander lo guardò gravemente. Comunque, mi ha convinto. Verrò con lei. Lei sta andando là, a quanto pare. Certo, disse Alexander. Salirono in macchina insieme e ci fu un'ulteriore dilazione quando Bill ingiunse all'autista di togliere i nastri bianchi. Che assurdità! Disse ad Alexander, lasciandosi andare sui cuscini grigi e calcandosi il panama fin quasi sul setto nasale. Non siamo né vergini, né torte, né in festa. Di certo non in festa. Agnelli che vanno al macello piuttosto. Ma ci andremo in silenzio e senza fronzoli. Stefani si muoveva tra gli invitati, ringraziandoli per i regali. Approfittava del suo talento mnemonico, riusciva a vedere ogni singola insalatiera, cucchiaino e tovaglia e formulare una gratitudine debitamente dettagliata. All'improvviso, in lontananza, vide suo padre, nei suoi abiti orrendi, far capolino tra i ragazzi del club giovanile di Daniel. Gli fece un cenno con la mano. Bill finse di non vederla. Mosse verso di lui e lo salutò di nuovo. Lui si spostò verso il cancello, oltre i cespugli e i capannelli di gente. Distinto, Stefani afferrò a piene mani le volute dell'abito bianco e si mise a correre. Guizzava sull'erba con lo strascico dei veli, sembrava che fluttuasse. A un tratto il sole sbucò da una nuvola in corsa. Gli ospiti ridevano, vedendola passare, come se stesse adempiendo al rito di un primitivo festeggiamento. Bill arretrò verso il terrapieno dove erano sistemati i tavoli. Stefani, tesa in volto per l'apprensione, superò di slancio il dislivello e si diresse verso di lui. I veli si sollevarono e rimasero sospesi in aria per un lungo istante, poi ricaddero leggermente. «Fermati!» gli disse. Bill si fermò e la guardò in un silenzioso faccia a faccia. Poi riprese a indietreggiare. Involontariamente Stefani disse «Non andartene!» «Ufficialmente non ci sono. Faccio solo atto di presenza. Ti prego non andartene. Non posso dire di sentirmi benvenuto. Non posso dire di sentirmi esattamente a casa. Il tuo assegno ci ha fatto molto piacere. Faccio quello che posso. È stato molto generoso da parte tua. Mi dispiacerebbe non esserlo. Allora resta, ti prego. Vieni dalla mamma, da Daniel. Ora che sei qui. Volevo solo vedere che uso era stato fatto dei miei soldi. Sembrò imbarazzato perfino lui per l'indelicatezza di quel commento. Sfregò i mocassini sulla ghiaia del viale. Aveva un'aria legnosa, di marionetta manovrata da corde maldestre. Stefani ebbe la tentazione di raggiungerlo e baciarlo, ma fu trattenuta da una chiara visione di lui che la respingeva brutalmente, sempre indietreggiando. «Ma perché fai così?» «Mi sento...» disse lui. «Mi sento...» Furono raggiunti da Daniel. Bill si scosse, con lo sguardo sfuggente di chi si trova di fronte a un poliziotto che sta per procedere a un arresto. «Lieto di vederla», disse Daniel spiccio. «Non ne dubito», disse Bill. «Stavo per andarmene. Sono venuto solo a dare un'occhiata, faccia conto che non ci sia. Ora me ne vado». «Lei è qui?» disse Daniel. «La vediamo. Stanno per tagliare la torta. Resta? Io non c'entro con tutto questo». Daniel provò istinti omicidi. Avrebbe voluto prendere il collo Bill Potter e ficcargli la testa, panama e tutto, nella ghiaia. Quella figura immobile nel viale lo faceva bruciare di una collera impotente. Se fosse stato per lui, l'avrebbe lasciato lì. Disse: «La prego, resti. Resti con noi». Bill aprì e richiuse la bocca come uno schiaccianoci. Daniel disse: «Stefani», e si avviò con decisione su per il pendio. Avrebbe voluto prenderla per la mano, ma sentiva che il gesto proprietario avrebbe alimentato l'incendio. Lei si girò verso Bill, disperata. Sei la mia primogenita, disse Bill drammaticamente, ferocemente, autocompatendosi. Dopotutto. Ti prego, lo supplicò sua figlia. Ti prego. Risalirono insieme il breve pendio e tutti e tre insieme si piazzarono accanto alla torta tra le caraffe sbrecciate. Da quella modesta altezza, Bill esaminò il semicerchio degli invitati con uno stato d'animo che oscillava tra la rabbia e un'allegria da folletto. Non faccia caso a me, disse ad Alexander, che era lì col bicchiere in mano per proporre il brindisi. Non sono qui per davvero, mi limito a dare un'occhiata. Sono impaziente di ascoltare il suo discorsetto. Su, non perda altro tempo. Alexander parlò brevemente e con quella ganazza. Inibito dalla presenza di Bill, incespicò sulle ragioni della sua partecipazione alla cerimonia. Spese qualche parola di ammirazione per il lavoro di Daniel e qualcuna per la saggezza e bellezza di Stephanie. Paragonò la sposa a una rosa bianca. Levò il bicchiere. Citò l'epitalamio di Spencer, chiaro e florido, che risvegliò la sua tennisoniana passione per il passato, il senso di altri momenti di svanita perfezione o esaltazione. Parlò della gradevole fusione di lacrime e risa, invitò i presenti a brindare alla coppia felice. Prassi voleva che Daniel rispondesse, e in effetti aveva estratto dalla tasca un cartoncino su cui aveva preso qualche appunto. Ma Bill Potter si fece avanti, tra le due caraffe, cappello e spalle indietro, sistemandosi i pantaloni blu sui fianchi, annunciando l'intenzione di aggiungere solo due parole al discorso assai eloquente del suo collega. Lui non era, come forse sapevano, ufficialmente presente, ma qualche parola di ufficioso buon augurio era ammissibile. Disse che gli era difficile credere che quella visione soave fosse sua figlia. Difficile sovrapporre quest'immagine a quella della bambina con le dita appiccicose, gli elati sgranellati, mutandone di sudice. Fece una pausa per lasciar spazio alle risa. Descrisse la sua bambina che trottava verso la scuola infagottata nel blazer con una cartella sciupata sulle spalle. Citò i giudizi sulle pagelle commentandoli «valido membro della comunità», ossia una capoclasse rigorosa e autoritaria, qualità di cui avrebbe avuto molto bisogno nel posto in cui andava ad abitare. «Assai dotata quando l'argomento di studio sollecita il suo interesse», ossia cocciuta, spesso pigra, ma con la testa sulle spalle. Bene, quella testa l'aveva portata a Cambridge. Al momento opportuno aveva abbandonato le sottovesti leziose e le sue seguaci sporche d'inchiostro per una sfilza di giovanotti innamorati, invariabilmente solenni, che, guarda caso, si ritrovavano a passare per Blessford Ride sulla strada da Bristol a Cambridge o altri itinerari ugualmente contorti. Ogni qualvolta lui riusciva finalmente a riconoscere uno di quei giovanotti, veniva subito rimpiazzato da un altro. E adesso c'era Daniel, di cui si poteva senz'altro dire che era riconoscibile per ragioni evidenti. Non dubitava che Daniel sarebbe stato felice. Sperava che non fosse necessario avvertirlo che la bambina è madre della donna e che qualunque cosa la chiesa di Daniel dicesse rispetto all'obbedienza, lui personalmente riteneva che sua figlia fosse dotata di una forza irresistibile negli ambiti in cui la sua mente eccellente si concentrava. Ora però doveva riconoscere che Daniel si era insediato nei suoi pensieri. Auguro loro ogni felicità. Evidentemente Bill aveva recuperato il buon umore. Daniel tirò fuori gli appunti e ringraziò tutti al galoppo. Winifred, gli Allenby, i Thorn, Alexander, Frederica e Bill, freddamente, per il suo ufficioso buon augurio, usando le stesse parole di Bill. Riuscì a farlo senza alcun riferimento a se stesso o a sua moglie. Poi si ritirò. Alexander sentì un colpo nella parte bassa della scapola. Era l'onnipresente Frederica. Gli sibilò. Quasi quasi pensavo che dicesse «ha tradito suo padre perché non dovrebbe tradire te». Però che esibizione, eh? Erano tutte bugie, lo sai. «Dici davvero che si è inventato tutto?» domandò Alexander, girandosi indietro per controllare che nessuno li sentisse. «Dalla prima all'ultima parola. Si è limitato a imbastire una serie di cliché che chiunque conoscono minimamente Stephanie sa che l'avrebbero ferita». Mi dispiace non avergli impedito di venire. Bisogna ammettere che la resa drammatica è stata eccellente. La torta a colonne venne smantellata e tagliata. I fiori, quelli della sposa e quelli della damigella d'onore, giacevano al sole accanto alle sue rovine sbriciolate. Erano piuttosto avvizziti ormai, se ne intravedeva l'armatura di fil di ferro. Gli ospiti sollecitarono gli sposi ad andarsene. Se ne andarono a piedi, passando dal cancelletto, giù per il sentiero che conduce al campo lontano e a Master's Row, dove si sarebbero cambiati d'abito. Dal momento che non andavano da nessuna parte, visto che non avevano soldi per la luna di miele, gli invitati agitarono la mano in segno di saluto dal cancello del giardino. Solo la famiglia e la madre di Daniel li accompagnarono. Alexander si avviò con loro, ma al ponte della ferrovia si fermò e decise di tornare indietro. Non era padre, né sposo, né parente di nessuno. Non c'era bisogno di lui, e ne aveva abbastanza. Gli tornò in mente il disordine femminile, privo di mistero, nella stanzetta spoglia della sposa, quella mattina, e il momento in cui aveva guardato, attraverso le tendine stampate della stanza da letto di Jennifer, un minuscolo quadrato di cielo azzurro. Sì, se ne sarebbe andato. Dopo la messa in scena del dramma, avrebbe fatto i passi necessari per andarsene, quali che fossero le prospettive. All'estremità opposta del campo da gioco, una piccola sagoma gialla saltellava agitando qualcosa di bianco. Si tolse il cilindro di seta, lo sventolò per qualche istante a destra e a manca, poi se lo rimise in testa e ritornò nel viale. L'Annunciazione. In piedi nella cabina pubblica, al centro dei solchi circolari dello spiazzo invaso dal fango, Stephanie cercava di fare una telefonata. Faceva caldo. La cabina puzzava di tabacco stantio, urina evaporata, metallo surriscaldato. I bambini si infilavano nei pneumatici neri e si lasciavano penzolare. Gli elenchi telefonici, con le copertine strappate rigonfie per l'umidità, avevano una patina scura di unto. Dritta dentro quella colonna d'aria fetida, Stephanie cercava di trovare un numero in un foglio ripiegato di carta bianca. Daniel la guardava dalla finestra di casa, sagoma bianca e rosa tra i montanti rossi, che poggiava l'orecchio, puntava il dito, premeva il tasto A. Ci fu un clic, le tremarono le ginocchia. «Sono la signora Orton. Mi aveva detto che forse, chiamando a quest'ora, avrei potuto sapere qualcosa. Glielo passo. Un momento, prego!» Altri clic, il sibilo dei cavi, il sibilo della mente in attesa. «Ah, sì, signora Orton!» Una voce stentorea e autorevole. «Sono lieto di informarla che il risultato è positivo.» Lieto non era la parola adatta. Le sembrava più un giudice che un messaggero di buone notizie. «Sarebbe bene che venisse da me appena possibile. Dobbiamo discutere alcune cose, riservare un letto e via dicendo. Signora Orton, è ancora lì?» «Oh, sì.» «Ha sentito quello che le ho detto?» «Sì, sì, ho sentito.» La voce esitò in cerca della frase giusta, poi si informò con discrezione. «Non se l'aspettava?» «No.» «Ora sia ragionevole, signora Orton. Venga da me e discuteremo di tutto. Non c'è solo lei a cui pensare.» «Lo so.» «Allora le faccio un appuntamento. Che giorno le andrebbe bene?» Fruscio di carta nei cavi. L'appuntamento venne fissato, il ricevitore riagganciato. Stephanie restava in piedi nella cabina, scrutando l'unica parete opaca, stringendosi le braccia intorno al ventre. Cercò di pensare. Era completamente stordita da Daniel. Il suo peso, il suo calore, la sua persona, che ci fosse o meno. Ciò non le aveva impedito di fare altre cose. Aveva insegnato con successo fino a fine semestre e adesso si dedicava a una meticolosa lettura del preludio e se lo godeva, a dispetto degli scontri tra bande sulle scale, dei campanelli striduli, le radio sempre accese, i vetri in frantumi. Tutto era illuminato da Daniel, come se la chiarezza della lettura fosse un suo dono o un dono del sesso, al quale, ai quali, appena lui tornava dalla chiesa o da una visita in ospedale, dedicava tutta se stessa. Daniel era così forte, così ingegnoso, così animatamente presente. Evidentemente aveva sempre saputo che era fatto così, altrimenti non sarebbe mai riuscita a prendere una decisione così contraria a tutto ciò cui teneva di più. Come molti intellettuali, era trivialmente che aveva perfetto qualcosa di istintivo e giusto. Senza dubbio, aveva ragionato con il corpo e perciò veniva ricompensata con un piacere puro, un tipo di piacere che probabilmente la maggior parte delle persone non aveva il privilegio di sperimentare. Pensò che ricordava l'istante del concepimento, illuminato dal sole e cristallino come un'ampolla, e lei costretta nel suo torpore ad ascoltare i movimenti interni del suo organismo, l'attività delle cellule, come il lievito nel pane, e poi aveva ripreso fiato. Non era stato intenzionale. Forse pensò, sempre immobile, cingendosi il ventre, con un sorriso segreto che apparteneva a passate distese di piacere, forse c'era stato semplicemente troppo di Daniel, perché la carne o il sangue o qualunque arnese di lattice potesse resistergli. Pensò che le dispiaceva. Sarebbe stato l'inizio della fine della stravaganza, e prima di allora non era mai stata, né aveva voluto essere, stravagante. Grappoli di cellule impiantate forse non avrebbero resistito, come l'arnese di lattice, a quella stravagante energia. Era strano che l'istinto a proteggere quella cosa indesiderata si sviluppasse così rapidamente. Eppure eccolo. I suoi sensi accesi da Daniel l'avvertirono. Evidentemente, nel suo caso, bastavano 10 minuti. I soldi sarebbero stati un problema. Daniel era così sicuro di quello che voleva e non aveva mai detto di volere figli. Stephanie sapeva che certi uomini ascoltano il battito del cuore attraverso le pareti del ventre, altri non sopportano l'intruso. Cosa avrebbe detto a Daniel? Lui si avvicinò a guado nella melma, imponente nel clergyman, e diede un colpetto sul vetro. Lei lo fissò smarrita, lui aprì la porta. «L'annunciazione», disse. «Come lo sai?» «Beh, sembri un dipinto della Vergine. Hai la stessa espressione stupefatta, come se avessi visto un angelo.» «Ma no, sono le braccia. Tutte le donne fanno quel gesto, si stringono il ventre nello stesso modo. Poi i capelli diventano orrendi.» Le accarezzò la capigliatura d'oro e le sorrise, la consueta sorridente nerezza. «Non puoi essere così sconvolta. Abbiamo corso qualche rischio, ci siamo presi delle libertà. Non può essere del tutto inatteso, Steph.» «Ero preoccupata della tua reazione. Mi sento molto in gamba.» «La maggior parte della gente ci riesce se ci prova, e di solito si sente in gamba. Beh, io mi sento in gamba.» «Hai intenzione di restare lì dentro per sempre?» «Non è questione di essere in gamba, Daniel. È un errore, un tremendo problema, lo so, ma ce la caveremo, non credi?» «È molto interessante. Sembri molto diversa.» «Mi sento molto diversa.» «E infatti lo sei. In 10 minuti siamo completamente cambiati. Dai, vieni a casa.» Rientrarono. Daniel continuava a guardarla come se fosse trasfigurata. Forse perché si sentiva davvero trasfigurata e le sembrava terribilmente ridicolo, Stephanie scoppiò a ridere e Daniel le fece eco rumorosamente. «Comunque», pensò Stephanie, «è una fine. Le cose sono cambiate, noi siamo cambiati, anche se non l'abbiamo ancora capito.» Tuttavia, non riuscirono a smettere di ridere. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. A cura di Diana Rocalamante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it